Andy Warhol era de Roma, braccio de ferro ti porta via. Pretty Woman, una borgatara, Superman di Torpignattara. E il fotografo Lou Reed masterizza CD rubati, mentre Jerry, lo squartatore, dorme in piedi in mezzo ai prati. Marilyn, Gandhi, Che Guevara sono inchiodati nella veranda. In televisione danno blowjob mentre Franco porta la merenda. Cina, passami la canna, a Robin Hood non t'allarga, fai girà, che siamo tanti a sospirà, che arrivi il nostro turno per far due tiri. Adrilussa, sta attento alla pasta, se notte riduco un colabrodo. Cocco e Cocca stanno a pomicia, come dei gatti stanno a fare le foto. Azzoro, che te stai a guarda, tu certe cose non ce l'hai da fa. Non vedi quanto magna questa pischella, ma da quand'è che non vedevi una padella. Marilyn, Gandhi, Che Guevara sono inchiodati nella veranda. In televisione danno blowjob mentre Franco porta la merenda. Cina, passami la canna, a Robin Hood non t'allarga, fai girà, che siamo tanti a sospirà, che arrivi il nostro turno per far due tiri. Marilyn, Gandhi, Che Guevara sono inchiodati nella veranda. In televisione danno blowjob mentre Franco porta la merenda. Cina, passami la canna, a Robin Hood non t'allarga, fai girà, che siamo tanti a sospirà, che arrivi il nostro turno per fa due tiri, per fa due tiri.